tiene il segreto tuo di dentro, a nessuno dai le chiavi, solo tu ci vai ogni tanto, rondini e farfalle nel tuo nascondiglio della tua innocente anima, ne hai fatto un ripostiglio della tua innocente anima, ne hai fatto un ripostiglio, tesori che parola non può dire, talmente ricco è il tuo baule, pieno di ricordi, è un bastimento che porta i tuoi misteri come quadri nel vento, che porta i tuoi misteri come quadri nel vento. Bevi carugiada tutto l'anno, nel tuo giardino scoppia il sole anche l'inverno, fiori d'acqua profumano il tuo sguardo, i tuoi segreti nel silenzio fioriranno, prenderanno in mano ogni tuo sogno, cresceranno come funghi anche nel fango, cresceranno come fiori in mezzo al campo, perché chi ama se stesso ama, illumina il mondo. Civette a braccetto con le farfalle, nel tuo cortile ortiche, ortiche, ma anche foglie, favole, frammenti di vecchie storie che hanno insanguinato le tue memorie, che hanno insanguinato le tue memorie. Al ritmo di una danza, suonano canzoni nella penombra, streghe come mele avvelenate, ma poi basta un bacio e nascono rose, ma poi basta un bacio e nascono rose. Nevica rugiada tutto l'anno, nel tuo giardino scoppia il sole anche l'inverno, fiori d'acqua profumano il tuo sguardo, i tuoi segreti nel silenzio fioriranno, prenderanno in mano ogni tuo sguardo, cresceranno come funghi anche nel fango, cresceranno come fiori in mezzo al campo, perché chi ama se stesso ama, illumina il mondo. Tu alveare le api ti danno miele e fanno di ogni tuo giorno un nuovo giorno da conquistare. Ci entri che sei distrutta, ma ne esci sempre con una bella rotta. del tuo giardino ci metti tutto, fiori d'arancio, fiori di frutto, nel tuo giardino ci metti tutto, fiori d'arancio, fiori di frutto, al riparo da ogni sciacallo, tu trovi pace nel tuo ruscello. E nessuno ha mai scoperto il mistero che porti dentro, senza alcun velo. Può crollare il mondo, scendere pioggia, bufere di vento, ma nessuno ti toglierà quello che hai costruito dentro. Ma nessuno ti toglierà quello che hai costruito dentro. Nevica rugiada tutto l'anno, nel tuo giardino scoppia il sole anche l'inverno. Fiori d'acqua profumano il tuo sguardo, i tuoi segreti nel silenzio fioriranno, prenderanno in mano ogni tuo sogno, cresceranno come funghi anche nel fango, cresceranno come fiori in mezzo al campo. Perché chi ama se stesso ama, illumina il mondo. Oh,